Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Io feci di tutto per saperne di più, per conoscere lei. Se non era una fata magica che scompariva, doveva esistere. Quindi cercai tra le roulotte di trovarla. Una parte di sguardo era curiosità per come ero attratto dai giochi di magia, e una parte era come se mi volesse suggerire: scappa, non farti catturare da questo mondo, cercati qualcosa di più serio. Storie di vocazioni brucianti e di destini inevitabili in una puntata che si intitola Arriva il circo. Lo sai, signor Fellini, una volta facevo un numero con un mio compagno che si chiamava Frufru. Si faceva finta che lui era morto. Io entravo in pista e dicevo: dov'è Frufru? Ma non lo sai, mi diceva il direttore, è morto? Ma come è morto, dicevo io. Mi deve restituire le 10 salsicce e la candela che ci ho prestato l'anno scorso. Ebbene, è morto, mi diceva il direttore. Dove posso trovarlo, dico io. Ma cretino, ti dico che è morto. Allora io, che non mi davo per vinto, mi mettevo a chiamarlo. Frufru, Frufru. Niente, non rispondeva. Che sia morto davvero, dicevo io. E se è morto, come faccio a trovarlo? Uno non può mica sparire così. Da qualche parte deve stare. Frufru! Finché mi viene un'idea, lo chiamerò con la tromba come quando lavorava con me. Non capita di recente di raccontare storie legate al circo, ed è il motivo per cui vi abbiamo fatto sentire questo estratto di questo film di Federico Fellini del 1976, che si chiama semplicemente I Clown. Vi dicevo, non capita perché è un mondo che ormai quasi sfuma nelle nostre ricordi, nella nostra memoria. Sì, esistono ancora dei circhi o i grandi circhi fuori dalle città, però non è più un mondo così presente nella nostra vita. Ebbene, nella puntata di oggi invece lo frequenteremo perché racconteremo la storia di un prestigiatore che, quando era un bambino, quando era un giovane uomo, una sera va al circo e vede una cosa che lo fa letteralmente svoltare. Credo che siano poche le persone ad aver avuto questa fortuna, ad essere illuminate in un momento molto preciso e da una luce diversa che gli ha permesso di capire: voglio fare quella cosa lì. E lui ha capito che voleva fare il prestigiatore, e quindi questo circo gli ha letteralmente cambiato la vita. E poi vi racconteremo la storia invece di un circense di inizio secolo scorso, che veniva da una famiglia di circensi e che ha passato la sua vita tra il circo, l'esibizione in generale, la piazza, gli spettacoli a cappello, facendo l'acrobata, facendo il marionettista. È davvero tutta dedicata al circo questa puntata, completa esclusa, perdonatemi, la parte finale, che invece è la nostra storia seriale, che parla sempre di Antonio Cocco. Quindi direi che è arrivato il momento di cominciare. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Se mi chiedessero quale donna ho mai amato tanto nella mia vita, risponderei certamente mia madre. E poi lei, la mia dea ispiratrice, Yvette Sauber, svizzera ammaestratrice di barboncini al circo Takimiri. Per capire quanto ha influito su di me questa persona nel mondo magico, bisogna fare un passo indietro. Certo, era destino, e questo è stato il mio. Andò così. Questo piccolo ma grandioso circo gestito da Antonio Taddei, in arte Takimiri, significa uomo della fune, Tarzan in giapponese, portava in giro per i paesi lanciatori di coltelli, acrobati, fakiri, clown, e poi lei, Yvette, ammaestratrice di barboncini, che in scena apparivano da cassette magiche colorate, da valigie incantate, e poi facevano capriole, carambole sui birilli, giravolte sulle zampe. Un turbinio di meraviglie che mi colpirono fortemente, ma non per gli animali che mi facevano tenerezza, bensì per quelle magie, per le scatole ad apparizione. Ma cosa c'era dentro? Come avvenivano queste cose? Ero appena stato catturato a 10 anni dalla magia, dai giochi di prestigio, e non lo sapevo ancora bene. Feci di tutto per cercarla dopo lo spettacolo, e dietro i carrozzoni attesi a lungo con paura perché credevano avessi cattive intenzioni. Infatti uscirono da una roulotte i fratelli Maciste che, oltre a piegare metalli e spezzare catene, sembravano volersi allenare a rutilare con un barilotto, quale sembravo io allora. Scappai, nascondendomi proprio nella sua roulotte. Poi lei mi vide con curiosità, piano piano, sorridendo, si avvicinò e io le feci capire che mi piacevano molto quei giochi che aveva fatto e che era incredibile per me. Mi prese in simpatia, mi fece entrare nella roulotte e aprì questo vecchio album, un po' anche rovinato, insomma, mi fece vedere le fotografie di quando lei era più giovane. Vidi queste foto, vidi queste immagini, per me era quella la mia vita. Il mio destino era segnato. Quando la conobbi scoprii qualcosa nei suoi occhi. Una parte di sguardo era curiosità per questo ragazzo attratto dai giochi di magia e una parte era di tristezza, come se mi volesse suggerire: scappa, non farti catturare da questo mondo. Guarda come sono ridotta io. Cercati qualcosa di più serio. Lei non sapeva che era mio destino e che proprio per questa fiamma ardente di passione magica avrei dato il via ad altre situazioni che avrebbero toccato altre persone oltre a me. Tutto doveva realizzarsi. Fatto sta che mi volle bene e mi aiutò nei giorni seguenti a capire che cos'era l'arte magica. Coin operated boy sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Passai pomeriggi interi dentro alla sua lattina su quattro ruote a guardare i ritagli di giornale del suo ex marito mago, Yexeland, inglese che ebbe una certa notorietà nei musical anglosassoni. Ero talmente preso che volevo essere come lui, tanto da adottare il suo stesso nome d'arte per un certo periodo. Lei mi insegnò a costruire il mio primo gioco di prestigio, i dischi che cambiano colore. Nel giorno a seguire cercò per quello che poteva di insegnarmi, ma disse che potevo contattare un certo Alberto Sitta di Bologna e che aveva l'indirizzo da qualche parte. Lo trovò e scrissi per la prima volta al CMI, al Club Magico Italiano. Ricordo l'emozione quando mi arrivò la busta di risposta con il logo azzurro e la bacchetta magica. Lo sventolavo ai 4:20 pedalando sulla bicicletta per tutto il paese per la gioia di essermi iscritto al Club Magico Italiano. Il circo ripartì dopo una settimana, ma la mia storia era tracciata ormai. Piangevo di disperazione davvero perché andava via quel mondo che desideravo con tutte le mie forze e non capivo ragione e non riuscivo a comprendere a quell'età perché mi si toglieva quello di cui avevo bisogno per vivere. Il circo era piccolino, un piccolo circo che conoscevo ma non c'ero mai stato, non mi attirava, non mi diceva nulla, ma poi, ritornandoci, il circo mi sembrava un pezzo d'arcobaleno caduto sulla terra, cioè una cosa incredibile. E allora tutte queste bandiere, le luci, era una cosa impossibile, si avvicinava troppo al mio modo di istinto, di vedere la vita. L'Abruzzo non aveva club o case magiche, io mi sentivo solo e disperato perché non avevo nessuno che capiva che cosa avessi dentro. Era tutto lì, in quella roulotte piena di illusioni, ma che si allontanava da me come se stessi perdendo la mia stessa vita. Ci vollero molti anni per capire che il nome di Yvette non era proprio Sauber, ma Zauber, che in tedesco significa magia. La rividi solo un'ultima volta pochi anni dopo, e da allora ho cercato in tanti modi di rintracciarla con amici all'estero, con i figli di Takimiri, nulla da fare, non l'ho più trovata e non so che fine abbia fatto. Mi piace pensare, e mi commuovo adesso nel ricordo, che lei davvero avesse compreso la mia grande passione e avesse fatto di tutto per aiutarmi, come in realtà fu. Ma avrei voluto dirle, abbracciandola, che se non ci fosse stata mai lei, Yvette, nella mia vita, non sarebbero esistiti neanche alcuni grandi nomi della magia italiana di oggi, miei allievi. Dovete credere che a volte si nasce anche solo per dire una frase a qualcuno che gli cambierà la vita e che a sua volta la cambierà ad altri. Ovunque sei, cara Yvette, io ti ringrazio dal più profondo dell'anima. Ti ho voluto e ti voglio ancora bene, ovunque tu sia. Ci sono persone che secondo me sono più fortunate di altre per un motivo molto semplice, perché sin da quando sono bambini a un certo punto hanno un'illuminazione ed è veramente una folgorazione sulla via di Damasco, cioè si guardano in faccia o guardano quello che hanno davanti e dicono: io voglio diventare questa cosa qua. Ed è esattamente quello che è successo a Ivo, credo. Pronto, ciao Ivo, buongiorno. Buongiorno Matteo, ciao. Ivo, guardando Yvette tu hai detto è lei, cioè non è lei la donna ma è lei la mia vita. Era una specie di angelo custode, incredibile, perché poi all'improvviso mi si è illuminato il mondo intero. E queste situazioni capitano veramente quando tu senti qualcosa dentro che sta avvenendo e che poi è avvenuto in realtà. Senti, lei che già ce l'hai raccontato anche, ma che persona era? Perché davvero sembra uscito da un racconto della Londra vittoriana la tua storia. Questo sì, ragazzino che esce dal circo, raggiunge la roulotte, questa donna che io immagino piena di trucco, o magari no, però me la immagino così, che prima è bellissima la tua descrizione quando dici che lei quasi vorrebbe dirti no, lascia perdere, poi però non ce la fa a non raccontarti. Il paragone con un personaggio vittoriano è perfetto, in realtà poi l'ho capito dopo, è comunque l'immagine sua molto affascinante, colorata, nascondeva anche una certa tristezza, perché poi si è scoperto dopo naturalmente questa tristezza negli occhi di chi però non ha abbandonato quel ragazzo, cioè come io, in realtà, che è la sua passione, quindi mi ha aiutato molto su questo, è stata proprio colei che mi ha aperto il sipario, il mondo magico che poi insomma ho vissuto. Ivo, quindi tu di fatto nella vita poi hai fatto il prestigiatore, dico bene? Prestigiatore, anche se adesso mi considerano più maestro, nel senso di insegno a tanti ragazzi, insegno e lo continuerò a fare per molto tempo, anche per le mie idee, per i giochi che ho creato, che altri fanno in scena, quindi... Insomma, ecco, senti, diciamo ci sono tante persone che vogliono avere un maestro, che vogliono imparare. Te lo dico perché io tardivamente ho scoperto giochi di prestigio, ne so fare due con le monete, faccio sempre solo quei due lì, di solito li faccio ai bambini che mi sgamano subito: ah, ce l'avevi nell'altra mano, quindi non sono totalmente capace, però ho veramente una fascinazione enorme. Quanti sono i ragazzi che ti cercano per chiederti di insegnare loro la prestigiazione? Sinceramente mi chiamano in tutti i club d'Italia, da Milano a Palermo, a Sardegna, da tutte le parti, quindi vado in giro a fare le mie conferenze, insegno i miei trucchi, i miei giochi, e sono tantissimi e sono soprattutto ragazzi, anche se ci sono persone sempre comunque anche dottori o avvocati o conduttori radiofonici. mi permetterò di mandarti una mia idea, un mio gioco, così poi mi dirai cosa ne pensi. Ma ti prego, cosa ne penso, certo, un super esperto. Ma Ivo, so che tu lavori, prepari proprio delle magie e delle illusioni per persone come Raoul Cremona, cioè per dei maghi, insomma, che noi, però sicuramente eravamo ce ne sono. Tutti amici che non erano famosi, Raoul Cremona, Arturo Bracchetti, Michele Foresta, Mago Forrest, molto certo. Legati, siamo rimasti molto legati, adesso loro sono molto popolari, sono molto famosi, ma comunque è rimasta questa grande amicizia, questo grande rispetto, per cui ho creato e creo tuttora ancora dei giochi per loro. Ivo, creare dei giochi significa che tu di fatto costruisci un gioco di prestigio? Lo costruisco, ma in realtà prima lo creo, devo ideare prima l'effetto, e mi viene spontaneo quando, sfogliando anche delle vecchie riviste, vecchi cataloghi, anche questo, io ho sempre l'immagine di Yvette davanti ai miei occhi, quindi questo sinceramente come una stella che ti guida. E comunque sì, creo questi effetti, poi realizzo i prototipi, li presento, li faccio vedere a questi cari amici e poi vengono ovviamente riadattati a loro in scena. Senti, nella chiacchiera che Anita fa sempre con le persone che ci mandano la storia e poi mi segna degli appunti rispetto a quello che vi siete detti, lei mi ha scritto una cosa che tu le hai detto che mi ha veramente stupito, cioè che i giochi nascono da una buona preparazione, certo, ma spesso anche da situazioni di vita che a volte sono dolorose. Che cosa significa? Sì, significa che in realtà più è stato grande la sofferenza in quel momento della mia vita, ci sono stati tanti momenti sofferti per vari motivi, e più poi la spinta, il voler evadere, la mente ti porta a vivere in un'altra dimensione, un'altra creazione, quindi forse è difficile capire il concetto, però in realtà si tratta proprio di uscire fuori da ogni parametro reale, quindi staccarsi da quello che è il dolore e creare qualcosa che ti faccia sorridere, ti faccia stare, almeno per me, in pace con me stesso. Perché gli illusionisti e i maghi in generale sono stati forse tra i primi a conoscere la mente umana, cioè a capire come, da una parte, come illuderla e dall'altra come rendere magico qualcosa che magico abitualmente non è. Cioè, perché la cosa che a me stupisce sempre quando vedo un trucco, guarda, sono stato qualche anno fa a Las Vegas e ho visto David Copperfield dal vivo, no? Che fa esattamente questo, cioè crea delle grandi storie e in mezzo a queste storie ci sono queste grandi illusioni che lui fa da anni, però insomma comunque ti stupiscono poi vedere dal vivo ancora di più. E il fatto è che io so che c'è il trucco, però e da una parte lo voglio scoprire, dall'altra però no. No, non è vero che lo vuoi scoprire, come tutta la maggior parte del pubblico non vuole sapere il trucco, vuole rimanere illuso, vuole vivere quella fantasia, perché in teatro comunque si vive la magia della finzione, al cinema è lo stesso, è così anche il prestigiatore. Se avete voglia di sapere qualcosa di più, Ivo si chiama Ivo Farinaccia e trovate delle cose online molto interessanti. Ivo, noi ci sentiamo invece personalmente, così vengo a fare un corso con te e così imparo almeno altri due trucchi e non solo quelle con la moneta, no, che appare dietro l'orecchio. Sono onorato di averti insieme agli altri ragazzi. Grazie davvero, Ivo, in bocca al lupo per tutto e a presto. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie davvero a Ivo per la chiacchierata che ci siamo fatti, per la storia e anche per i suoi racconti fatti direttamente al telefono. Ho cominciato a lavorare nel circo 7 mesi prima di venire al mondo. Mia madre lavorava fino al 7° mese con i numeri del globo e del filo. A 2 anni e mezzo lavoravo al numero dell'antipodista. Mio papà mi faceva girare sui piedi come una botte. A meno di 5 anni cominciai a lavorare come contorsionista. Mi chiamo Gualberto Niemen, sono nato nel 1905, faccio il marionettista. Ma all'inizio non è stato facile. Mio padre era un artista di tradizione circense da generazioni. Era un'enciclopedia di numeri e attrazioni da circo. Era un ballerino di corda elastica, giocoliere, bravissimo antipodista, saltatore di gran precisione col trampolino. Sapeva fare i salti mortali con le gambe di legno legate ai polpacci alte 50 cm da terra. Era sempre chiamato dai grandi circhi nazionali e per quanto preferisse lavorare con la sua piccola arena, qualche volta non poteva rifiutarsi. Avevo ancora meno di 7 anni quando mio cugino mi regalò un piccolo teatrino di marionettine alte 15 cm. Da quel momento, per me, è cambiato tutto. Guardalo là. Quello è il suo trucco. È questa la sua esibizione. Ecco perché nessuno capisce il suo metodo. Totale devozione alla sua arte. Assoluta abnegazione. Sai una cosa? È l'unico modo per fuggire da tutto questo. Capisci? Io ero destinato al circo, ma per me il mio destino era nel teatro delle marionette e nei burattini. Il mio primo maestro lo ebbi nel 1920, si chiamava Francesco Francia. Io già sapevo fare qualche paio di mani e in cambio gli chiesi qualche fondale. «Tu sai già dipingere», mi disse il Francia. «Un bravo burattinaio deve sapere dipingere le scene da solo, se no non sarà mai un artista». Ma io dovevo lavorare al circo, o più che altro al circo avevano bisogno di me. Ero diventato un bravo acrobata e ginnasta. Ero anche un bravo clown. Il mio nome d'arte era Padella. A fare le acrobazie mi era venuto con lo sviluppo anche un bel fisico e avevo sempre ragazze tra i piedi. Ma io la cotta l'avevo già addosso per i burattini. Volentieri il mio tempo libero lo passavo a fare qualcosa di utile per i burattini. Dipingevo i miei fondali e scolpivo le mie teste. Per allenarmi dipinsi anche i centri del tirassegno che aveva messo in piedi mio papà di fianco al circo. Appena potevo mi allontanavo dal circo con il mio teatrino, raggiungevo a piedi il paese vicino e cominciavo a presentare i miei spettacoli. A 18 anni parto militare e lascio la mia cassa con teatrino e burattini in una cascina di un amico per i 18 mesi della leva. Quando torno, prima di andare dai miei, passo dalla cascina a riprendermi tutto. Poi vado al comune e mi faccio la licenza. Il sottoscritto dichiara di esercitare il mestiere di burattinaio su tutte le piazze d'Italia. Ma le cose non vanno come vorrei. Mi tocca vendere tutto, burattini e fondali, e mi metto a fare il pittore decoratore. Mi tengo solo una testa di gianduia e qualche fondale. Prendo l'incarico di dipingere una villa nuovissima di un signore appena tornato dall'America. Dovevo verniciare i serramenti e decorare sia l'interno sia l'esterno come una finta tappezzeria di carta. Quel po' di denaro che avevo in casa lo usai per pagare le vernici e i colori e rimasi all'asciutto. Andai dal padrone per farmi saldare il conto, ma quel disonesto trova la scusa che i serramenti non erano verniciati bene e vuole liquidarmi con meno della metà. Naturalmente non accetto, gli faccio causa. Ma per questa storia il tempo passava e mia moglie piangeva perché non voleva più andare a fare la spesa, perché la bottegaia vicino a casa nostra aveva già 50 lire da pagare segnate sul libretto. Guardavo il mio gianduia e gli dicevo: tocca a te guadagnare qualcosa con uno spettacolo, se no non si fa più la spesa, perché senza soldi si ha vergogna. Ed è stato lui a darmi l'idea. Mi alleno con un po' di attrezzi di mio padre da giocoliere, è un giovedì. Mi alleno 2 giorni e sabato in bicicletta vado a fare il giocoliere nelle osterie dei paesi, nelle frazioni intorno. Chiedo il permesso di esibirmi al padrone, mi presento, mi esibisco, mi battono tutte le mani. Io ringrazio e dico che più tardi sarei passato a raccogliere le offerte per la fabbrica dell'appetito. Il cappello per noi è come l'applauso, è come il riconoscimento, è tutto. Ci viviamo perché quello che c'è nel cappello ti permette di mangiare, di vivere, di aggiustare lo strumento o di comprare le cose che servono. Faccio anche qualche numero da acrobata, faccio i salti mortali, porto a casa soldi per saldare il debito e avanzarne ancora. Mia moglie è tutta contenta, può andare a fare la spesa a testa alta, senza timore. E io, più contento di lei, dissi ai miei burattini: adesso pitturo soltanto più per voi, per fare bei scenari adatti agli spettacoli, e non vi lascerò mai più, perché con voi la vita è più allegra. Questa è la storia di Gualberto Niemen, che era appunto un circense, figlio di circensi, che nella vita ha fatto un pochettino di tutto, sempre legato alle arti, alla pittura, come avete sentito, e poi all'acrobazia e alle marionette. Questa è una di quelle storie che sono conservate all'archivio di Pieve Santo Stefano e che ci piace raccontarvi, soprattutto in una puntata che si intitola Arriva al circo. C'è una cosa che a un certo punto Antonio Cocco comincia a raccontare a casa nelle sue lettere. Ricordiamo che in questo momento siamo ancora in Algeria, da Venezia. Quando è scappato lui ha raggiunto la Francia, è passato da Lione, poi è arrivato a Marsiglia e da lì ha raggiunto l'Algeria, a Sidi Bel Abbès, dove si sta addestrando con la legione straniera tra angherie di ogni tipo. E c'è, oltre alle marce, oltre ai soprusi che deve subire o alle sviste della gente a cui chiede di spedire una lettera e che semplicemente si è dimenticata di spedirla, c'è la violenza vera e propria. E in questo racconto che fa il padre lui descrive per filo e per segno che cosa accade quando un caporale o comunque un ufficiale non credo, ma un soldato più anziano di lui gli chiede di confessare quello che è accaduto. Si parla di una rissa, lui in realtà ne è estraneo, figuriamoci. Insomma, ormai lo conosciamo un pochettino, Antonio Cocco non è tipo da partecipare alle risse. Nonostante tutto finisce in prigione perché sostengono che abbia partecipato ad una rissa. E la forma di violenza a cui viene sottoposto è inquietante per i modi e per i toni. E qui Antonio decide di raccontarla al padre e decide di raccontargliela proprio tutta. E c'è poi una chiusura che è molto amara, perché lui cita la frase del padre che dice: ricordati che io sono più innocente di te e sono colpito come te. Cioè, come se il padre gli dicesse: tu quantomeno hai una colpa, che è quella di essere scappato. Io non ho neanche quella, eppure vengo colpito tanto quanto sei colpito tu da quello che sta accadendo nella tua vita. E chiaramente per questo giovanissimo ragazzo è di un peso e di una potenza enorme. Caro papà, credo tu abbia ora compreso cosa voglia dire fare 2 o 3 giorni di marcia e quanta buona volontà ci devo mettere per tirare avanti. Proprio il giorno avanti alla marcia sono stato messo in prigione per una zuffa accaduta in refettorio.